Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, ma un saluto particolare al dottor Giampiero Porzio, dirigente medico dell'unità operativa di oncologia medica dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e responsabile del servizio di oncologia domiciliare dell'associazione L'Aquila per la Vita. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi. La vita continua, dottore, e da ieri voi avete ripreso ad andare a visitare i malati che dalle loro case sono state trasferite nelle tendopoli. Sì, da ieri pomeriggio abbiamo ricominciato a vedere i pazienti là dove si trovano, quindi tendopoli, case, perché purtroppo ieri pomeriggio abbiamo dovuto vedere un malato che era completamente immobilizzato e quindi era rimasto nella sua casa. Però penso che era un segnale che doveva essere dato. Abbiamo interrotto il servizio solo 2 giorni, lunedì e martedì, e ieri abbiamo ripreso, proprio per testimoniare ai malati che non li abbiamo abbandonati, che tutto continua. Credo che proprio il vostro impegno, dottore, sia una dimostrazione tangibile del desiderio di guardare avanti, di tornare alla normalità. I malati come rispondono? Come vi accolgono? Sicuramente con uno sguardo e con delle emozioni molto diverse rispetto alla quotidianità. Ma sicuro, perché oltre al problema della malattia adesso c'è anche il terrore delle scosse che continuano, l'incertezza per il futuro, la preoccupazione per i familiari, quindi a stress si è aggiunto altro stress. Però, ripeto, stiamo tutti lottando per andare avanti. Volevo dire che per esempio da oggi è ripreso il servizio di dialisi. I colleghi di dialisi hanno allestito sotto una tenda il reparto e i malati dializzati dell'Aquila possono fare dialisi. Da domani riprenderà l'assistenza domiciliare per i pazienti non oncologici, quindi sono tutti segnali che dimostrano che vogliamo ricominciare a tutti i costi. Non ci va di piangere in diretta. I nostri amici li piangiamo così, in un momento stanno in disparte, però poi bisogna continuare a lottare, bisogna continuare a combattere. Dottore, il vostro ospedale è stato gravemente danneggiato, ma voi medici, gli infermieri, tutti gli operatori, ricordiamo sempre i volontari, continuano pur nelle mille difficoltà ad assicurare e poi a riprendere l'assistenza ai malati e alle loro famiglie, e come lei ci ha raccontato questa assistenza oggi ha un significato ancora più pieno e profondo. Sì, assolutamente, molti malati vengono all'ospedale da campo semplicemente per chiedere informazioni, per sapere quello che dovranno fare in futuro, e tutti i colleghi sono là disponibili ad ascoltarli. Chiaramente in questo momento stanno lavorando di più chirurghi, ortopedici, rianimatori eccetera, però diciamo che tutti sono al loro posto. Ho visto questa mattina uscendo per andare a vedere i malati che c'erano tutti quanti i colleghi della neonatologia che stavano allestendo incubatrici e tutto quello che può servire per l'emergenza di un parto, di un bambino prematuro. Quindi diciamo che tutti sono al loro posto. Dottore, c'è stata una gara di solidarietà che continua. Lei come aquilano e come tecnico, di che cosa c'è bisogno oggi, in questo momento? Ma in questo momento diciamo che la Protezione Civile ha fatto un lavoro straordinario. All'Aquila c'è tutto quello che può essere utile per fronteggiare l'emergenza, almeno dal mio punto di vista. Quello che sarà molto importante è il futuro, perché non sarà un'emergenza che durerà pochi giorni, nel senso che qui non arriva nessuno a dire siete su scherzi a parte. Questa è una cosa che durerà per mesi, se non per anni. E allora bisognerà ragionare come assicurare ai pazienti dell'Aquila una continuità di assistenza, di cura per un periodo molto molto lungo, che sarà un periodo contraddistinto dall'estrema precarietà. Questo non lo so, ma è il problema secondo me. La gestione dell'emergenza in questo momento direi è stata risolta. Molti pazienti sono stati dirottati sugli altri ospedali abruzzesi, l'ospedale da campo funziona molto bene, però che cosa succederà fra 2 mesi? Come potremo assistere i malati fra 2 mesi? Tenendo presente che buona parte dell'ospedale richiederà interventi strutturali molto pesanti, almeno questo ci dicevano i tecnici della Protezione Civile, e buona parte dell'ospedale sarà completamente inagibile perché è crollata. Dottore, io sono molto contenta di averla avuta qui, soprattutto perché lei manda un messaggio chiaro, c'è questa voglia di guardare in avanti. Lei diceva appunto: i nostri cari li piangiamo in disparte, ma ci mettiamo al lavoro e diamo soprattutto, e io credo che il vostro esempio lo dimostri chiaramente, un messaggio che si può guardare avanti, si deve farlo, e la collaborazione in questi momenti è fondamentale, ma soprattutto l'emergenza è solo l'inizio, perché si deve poi continuare ad investire e ad aiutare. Quindi non è solamente l'emergenza. Dall'emergenza si deve uscire per guardare avanti e per costruire. Dottore, io la ringrazio, ci sentiremo presto. Un abbraccio. Se posso dire soltanto una cosa? Deve. Visto che Radio 24 è molto ascoltata dai colleghi, vorrei ringraziare tutti gli oncologi d'Italia che ci hanno chiamato per... Scusami, ma... No, ma lo so. Mi commuove particolarmente perché ci sono stati tutti quanti molto vicino. Sì. E si sono messi tutti a disposizione, e quindi vorrei, a nome di tutti i colleghi, del nostro primario, di tutti quelli che lavorano nel reparto, ringraziarli e dirgli che abbiamo molto apprezzato la loro vicinanza e la loro solidarietà. E continuiamo questa battaglia anche per loro. Grazie, dottor Porzio, un abbraccio. Grazie, continuate così. Grazie, buona giornata. E noi torniamo in studio e cambiamo decisamente argomento. Oggi parliamo di legamenti, ritorniamo anche noi nel quotidiano della nostra trasmissione per occuparci di prevenzione e di salute. I legamenti, dicevo, sono strutture fibrose, sono costituite da collagene, è la stessa sostanza che forma i tendini. Per facilitare le cose, immaginiamoli un po' come delle corde formate da tante fibre che hanno il compito di tenere collegate due ossa o due parti dello stesso osso, evitando che movimenti o forze esterne, proprio che derivano da traumi, ne alterino la posizione. Ai legamenti possono succedere un po' di tutti i colori, gli sportivi lo sanno bene, ma non solo, perché possono tendersi, sfilacciarsi, rompere parzialmente o completamente. Detto questo, però, c'è anche modo di trattarli per bene, quindi di aiutarli senza faticarli a compiere bene il loro lavoro. Ne parliamo oggi. Qua in studio con me ci sono due esperti, il dottor Gianluca Melegatti, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Responsabile del centro di riabilitazione sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Tra l'altro, dottore, proprio dei rugbisti sono stati protagonisti, no, di alcuni eventi proprio nel terremoto dell'Aquila. Certo, c'è stata una grande partecipazione da parte della squadra dell'Aquila e quindi del movimento rugbistico aquilano, in solidarietà e con una attività veramente di ricerca nei confronti dei loro concittadini straordinaria. E io voglio associarmi al suo abbraccio ideale per tutti gli abitanti dell'Aquila, che conosco bene, conosco la città e conosco gli aquilani. Sono persone toste, sì, come dicono loro, e sicuramente ce la faranno. Sì, e ce la faranno sicuramente, e ce la faranno con l'aiuto di tutti. Soprattutto io ritornerei, e poi torniamo a parlare dei nostri legamenti, che in effetti sembrano poca cosa, ma ci sono anche loro, certo, nel quotidiano. Certo. Questo invito del nostro amico, il dottor Giampiero Porzio, che insomma l'emergenza finisce, ma c'è tutta la ricostruzione che durerà a lungo. Certo. Ma in studio con noi abbiamo anche il dottor Marco Sciolan, che è dottore in fisioterapia e osteopata a Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto, a casa, se il vostro legamento vi ha dato qualche problema, chiamateci subito, raccontateci come avete gestito il problema nella fase acuta e quali terapie vi sono state consigliate e soprattutto quali risultati avete ottenuto. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Abbiamo Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Ma dottor Melegatti, abbiamo detto che i legamenti sono fatti di collagene come i tendini, però abbiamo, e tra l'altro ai tendini abbiamo proprio dedicato una mega trasmissione, ma i legamenti sono diversi dai tendini, hanno proprio delle caratteristiche che li denotano, certo, e forse conoscerli ci aiuta anche a trattarli un po' meglio. Sicuramente, tanto dobbiamo dire che i legamenti sono un po' i custodi della stabilità delle nostre articolazioni. Senza, sì, legamenti avremmo dei grossi problemi a deambulare, a muoverci, a fare sport. Sono delle strutture simili ai tendini, però dai tendini si differenziano proprio per la loro funzione biomeccanica soprattutto e la loro capacità a riparare. che sì, è maggiore rispetto a quella dei tendini. Questa è una buona notizia, nel senso che ci sono possibilità di riparazione maggiori e quindi non è solo e sempre necessario l'intervento chirurgico per guarire da una lesione ligamentosa. Volevo aggiungere una cosa velocissima. Sì. Non sono solo degli stabilizzatori a livello articolare i legamenti, sono anche dei veri e propri organi di senso, nel senso che al loro interno, soprattutto in certi legamenti come il legamento crociato anteriore, esistono dei piccoli organi di senso che ci permettono di regolare il movimento articolare e quindi sono una specie di feedback e di controllo automatico del nostro movimento articolare. Magnifico, come una sorta di un po' di pilota automatico. Esattamente, e quindi quando c'è la lesione del legamento possiamo avere un problema di instabilità legato anche a questa mancanza di controllo. Dottor Sciolan, li abbiamo presentati, abbiamo visto di che cosa sono fatti, come si caratterizzano. Sono sono robusti ma poco elastici, ma andiamo a vedere che cosa può in qualche modo metterli in difficoltà. E soprattutto poi volevo chiedere anche da lei, per vedere il bicchiere mezzo pieno, come possiamo aiutarli a renderli più elastici, se questo è, no, un punto a loro favore. Allora sì, diciamo che come diceva il dottore hanno intanto una funzione diversa, in quanto i tendini hanno funzionano un po' da ammortizzatori fra il muscolo e l'articolazione, sì, e quindi devono avere una capacità elastica maggiore rispetto ai legamenti, sì, i quali invece hanno una funzione di stabilità attraverso poi l'utilizzo di questi sensori che fanno parte di quel sistema che viene detto propriocettivo. Non esiste, diciamo, una tecnica per rendere più elastici i legamenti, ma esistono delle strategie per far sì che questi vengano protetti maggiormente. Ecco. Quindi noi abbiamo a livello articolare degli stabilizzatori dinamici che sono i muscoli, quindi avere un'attività, una capacità muscolare adeguata all'attività fisica che ci viene richiesta ci permette di proteggere questi legamenti. C'è la possibilità poi di fare degli esercizi, quali per esempio gli esercizi di propriocettiva o di stability training o dei lavori funzionali sport specifici, che ci mettono in condizione di affrontare un gesto sportivo in condizioni migliori rispetto a una persona che non fa questi esercizi. Sono, dottor Melegatti, sono quello che banalmente chiamiamo stretching, o c'è qualcosa di lo più? Lo stretching fa parte di questo programma di condizionamento, sì, e lo stretching è molto importante perché ci permette di rendere i muscoli elastici e quindi ci permette anche di far funzionare bene le nostre articolazioni, ma non solo, come diceva Marco, il rinforzo muscolare è molto importante, è anche importante quella ginnastica che viene chiamata ginnastica propriocettiva, che molte persone conoscono, che sì, si fa attraverso tavolette instabili, sì, e che ci permette proprio di recuperare il controllo dinamico della nostra articolazione. Allora io direi, se mi aiutate, di provare a fare una sorta di identikit della persona più a rischio. Iniziamo, dottore, uomo o donna, il sesso fa la differenza? Direi che le donne sono più interessate dalle, eccoci, lesioni legamentose. Questo anche pare per un problema anche ormonale, nel senso che i legamenti delle donne sono un po' più elastici rispetto a quelli dei maschi e quindi possono essere interessati e possono essere stirati con, diciamo, maggior facilità. Questo soprattutto a livello di alcuni grossi legamenti come il legamento crociato anteriore, che è stato molto studiato. Dottor Sciolan, gli anni pesano sui legamenti? Beh, assolutamente. Perché sì. Perché invecchiano anche loro. Sì, invecchiano i legamenti, la capacità muscolare diminuisce, il sistema propriocettivo diventa un pochino più deficitario, i riflessi rallentano purtroppo. È normale. Certo. Ma, dottor Melegatti, rischia di più il sedentario o lo sportivo? Quello che ha il muscolo scolpito o quello che ha un po' il muscolo avvizzito? Allora, diciamo, non è semplice rispondere a questa domanda, nel senso che sicuramente lo sportivo è avvantaggiato perché ha una costruzione muscolare migliore, ha una buona flessibilità, una buona forza muscolare e quindi attraverso queste caratteristiche è in grado di controllare meglio i movimenti che possono portare al trauma, alla distorsione. È anche vero però che lo sportivo va incontro più frequentemente a situazioni, a occasioni traumatiche, certo, cambi di direzione, movimenti bruschi. D'altro canto il sedentario è meno soggetto, è meno sottoposto a queste situazioni pericolose, per cui direi che è più esposto lo sportivo. Ecco, siamo tornati insieme, cerchiamo di capire quali sono i segnali che possono avvertirci che il nostro legamento ha subito un danno lieve, moderato, un pochino più serio, perché ci sono problemi di diversa misura. Certamente ci sono lesioni differenti legamentose. Beh, i segni sono i segni classici. Intanto devo dire che il soggetto ha la percezione di essersi fatto male quando la lesione è importante. Sì. Proprio perché esiste gonfiore immediatamente, subito l'articolazione si gonfia, c'è dolore ad appoggiare il peso del corpo, quindi dolore al cammino, dolore a elevare il braccio se il problema è a livello della spalla. Addirittura il paziente, quando la lesione è importante, può sentire anche una sorta di click, una sorta di scatto, un rumore a livello del ginocchio o della caviglia, e questo è indice di lesione acuta legamentosa, e quindi tutto questo fa capire al paziente quanto grave sia la situazione. E allora cosa fare? Se dopo 24-48 ore le cose non migliorano, allora... Dottor Sciolan, ho la sensazione che di essermi presa una storta di quelle, no, alla caviglia, la storta alla caviglia è un classico, si appoggia male il piede, via. Allora, che cosa faccio in acuto? Il dottore ci diceva, la persona si rende conto dell'entità del problema, però che cosa faccio? La fascio, metto il ghiaccio, metto una crema, vado dal medico? Beh, in fase acuta è sempre auspicabile un'applicazione di ghiaccio, eventualmente con una fasciatura compressiva. Sì. E se i sintomi permangono oltre le 24 ore, sicuramente un inquadramento clinico, quindi una visita da uno specialista è auspicabile. Insomma. Perché meglio non aspettare troppo, dottor Melegatti? No, è meglio non sottovalutare il problema, perché se si sottovaluta poi si rischia di guarire con una caviglia o con un ginocchio instabili. Mm. E allora bisogna essere molto aggressivi, tra virgolette, nel trattare bene le nostre caviglie e le nostre ginocchia, perché poi ci devono portare in giro per tutta la vita. E poi soprattutto perché, se come ci avete detto voi, ed è vero, il legamento ha questa capacità di ripararsi, meglio aiutarlo, e ci sono tante terapie. Assolutamente, però volevo dire una cosa importante. Sì. Allora, devo dire che la maggior parte dei traumi distorsivi fortunatamente sono lievi e quindi guariscono nel giro di 2-3 giorni. Guariscono da soli con un minimo di riposo. Se però vediamo che questo non succede, abbiamo la sensazione che il dolore aumenta, allora bene, è bene seguire le indicazioni di Marco. Darei la parola ai nostri ascoltatori, che comunque ci aiutano, perché con il loro quesito, il loro problema, aiutano anche voi a dare delle indicazioni più a livello generale per le persone che si ritrovano nella stessa situazione. Stefano ci sta aspettando da Torino, 824 0024. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci racconti, Stefano? Dunque, la mia storia è questa. Io sono stato operato al legamento crociato del ginocchio circa 20 anni fa. Adesso ho 40 anni, quindi avevo circa 20 anni. E i sintomi che ho avuto chiaramente sono gli stessi descritti dal dottore. Sì, insomma, è preparato, li conosce anche lui, pur non avendoli mai, si è mai rotto un legamento, dottore? Sì, la verità sì. E allora vede, parla diretto. Con competenza. Quindi va bene, 20 anni fa, adesso che succede? E adesso, diciamo, a distanza, qualche anno fa, un paio d'anni fa, credo, perché poi non ho più fatto visite specialistiche, che la riparazione, se così possiamo chiamarla, è risaltata. In questo secondo incidente io non ho sentito, diciamo, alcun dolore, né ho avuto particolare gonfiore, però la mia sensazione è quella comunque di essere, diciamo, al punto di partenza. Di nuovo, ecco, di nuovo punto a capo. Stefano, se deve fare una domanda precisa, la invito a farla, se no do la parola agli esperti. Ho, diciamo, sempre mantenuto il tono muscolare abbastanza alto, perché comunque ho continuato a fare sport per quello che era possibile, però magari adesso non ho più tutto questo tempo e volevo capire se era possibile magari con degli interventi meno invasivi quello che ho fatto 20 anni fa. Grazie Stefano, è chiaro. Quindi Stefano, operato, gli sembra di ritornare nella stessa situazione, cosa deve fare? Aiutatelo. Ma intanto volevo capire se c'è stato un nuovo trauma, c'è stato un episodio traumatico, una distorsione facendo sport, e quindi ce l'ha avuto. Però diciamo che rispetto alla prima, che fu abbastanza chiaro perché avevo avuto il ginocchio gonfio, questa è stata più lieve, è stata meno grave. Ma allora bisogna innanzitutto capire se effettivamente c'è stata la rirottura del neolegamento, cioè del trapianto. In questo caso il problema si può essere affrontato o in maniera chirurgica, perché si può anche pensare a una revisione chirurgica, quindi a un nuovo intervento chirurgico di ricostruzione del crociato anteriore. Questo però se ne vale la pena, vale a dire se la sua attività è molto importante dal punto di vista sportivo oppure lavorativo, oppure si può gestire in maniera conservativa sportiva e lo si può fare anche con dei buoni risultati. Direi che Marco può dottor Sciolan, quali sono, quando parliamo di terapia conservativa, che cosa, voi a che cosa fate riferimento? A delle terapie manuali, a delle terapie fisiche? Allora sì, assolutamente, delle terapie che spaziano dalla terapia manuale alla terapia fisica, al recupero muscolare. Diciamo che il paziente sicuramente dovrebbe affrontare un adeguato training di rinforzo muscolare e soprattutto indirizzato al recupero della stabilità dinamica, quindi attraverso dei lavori su delle tavolette instabili, lavoro di pliometrico e del lavoro eccentrico. Quindi utilizzando diverse tecniche si può riprendere il controllo della propria articolazione. Si chiama training di perturbation training, è un training proprio eccettivo, insomma un training un po' complesso fatto dall'insieme delle cose a cui accennava Marco: forza, proprio eccettività, controllo dinamico. Tre parole chiave, andiamo da Bergamo, ci aspetta Giuseppe, buongiorno e benvenuto, dica. Buongiorno, grazie per l'opportunità e complimenti. Senta, io mi sono rotto il ligamento 10 anni fa, il crociato. Ma il crociato, ma se lo rompono tu? No, ma questo crociato come mai? È un trauma. Non so, nasce difettoso il crociato, al punto debole. Vabbè, scusi Giuseppe, questa era una considerazione, perché anche gli SMS sono tutti sul legamento crociato. Mi scusi Giuseppe, vado avanti. Niente, fino a un paio d'anni fa ho convissuto con questo legamento rotto, poi seguito di un'altra distorsione ho perso stabilità e metà febbraio sono stato operato con legamento artificiale, il LARS. La mia domanda è questa: io faccio un lavoro in piedi tutto il giorno, posto anche qualche peso non leggero, insomma, quando è possibile il rientro al lavoro? Perché qua Giuseppe ci porta fuori dalla sala operatoria. Il momento il periodo, altro che momento, di riabilitazione è assolutamente importante. Voi tecnici dite che è ugualmente importante quanto l'operazione, anzi, se non fatto adeguatamente nei tempi, nei modi giusti, può mettere in discussione anche il risultato dell'operazione stessa. Quindi vi affido Giuseppe. Vanifica proprio il lavoro del chirurgo se la rieducazione non è adeguata. Allora, innanzitutto a metà febbraio, quindi siamo a metà aprile, per cui sono passati 2 mesi. Bisognerebbe capire intanto che tipo di attività lavorativa è. È un'attività lavorativa molto importante, dove deve sollevare dei pesi, dove deve spostarsi in situazioni instabili, oppure no? Più che altro sono abbastanza fermo, anche se faccio qualche torsione, insomma. Ma allora, in genere le torsioni comunque sono la torsione è la situazione più delicata, più a rischio, e per fare questo in tutta sicurezza ci vuole del tempo e ci vuole del lavoro fisioterapico. Io credo che per essere a posto ci voglia ancora un po' di tempo, almeno un mese e mezzo di lavoro fatto bene, progressivo e costante, soprattutto lavoro rieducativo. Un po' noioso, dottor Sciolan. Scusi, nessuno la vuole fare la riabilitazione, il problema come mai? Sì, purtroppo la riabilitazione è un po' noiosa e questo dipende un po' dal fisioterapista cercare di renderla un pochino più frizzante. Lei, oltre che fisioterapista, è osteopata, quindi integra queste due figure. Assolutamente sì, secondo me l'integrazione delle varie tecniche è l'arma vincente, come il lavoro in equipe è l'arma vincente, non il lavoro isolato. Abbiamo detto che ci sono tante possibilità, naturalmente vengono un po' cucite a misura del paziente, giusto? Certo. Posso aggiungere una cosa importante per il signor Giuseppe? Si potrebbe anche pensare a utilizzare una ginocchiera funzionale nel post-operatorio, e questa potrebbe garantire quel poco di stabilità in più per proteggere il ginocchio in queste situazioni di torsione. La ginocchiera funzionale non è valida in assoluto per attività sportive, ma per attività lavorative sotto un certo controllo, allora potrebbe essere utile. Quindi le consiglio magari di organizzare questo, ne parli col suo chirurgo. Andrei a Matera velocemente da Antonia prima di andare a sentire le informazioni sul traffico. Antonia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Intanto io chiamo per mia figlia. Sì. Mia figlia ha 22 anni, le è stata diagnosticata, le fu diagnosticata finalmente, dico. Finalmente. Sì, perché inizialmente lei si comprendeva sempre storte, va dolori, molla caviglia, mol polso, mol ginocchio. Qualche mezzo è permesso di dire che se l'inventava i dolori. Poi finalmente qualcuno ci ha detto che aveva una lassità legamentosa. Sì. E l'unica cosa che hanno diagnosticato ginnastica dolce, da premettere che lei è una sportivissima, fa scienze motorie e sin da bambina ha fatto karate, calcio. Abbiamo visto però, Antonia, il dottor Melegatti ci ha detto che noi donne abbiamo, i legamenti di noi donne sono più flessi, più elastici e quindi un pochino potenzialmente un pochino più a rischio. Dottor Melegatti, che, adesso andiamo alle strade e poi con il dottor Sciolan proviamo a rispondere a dare delle indicazioni ad Antonia, perché questa lassità legamentosa è molto diffusa. Sì, è diffusa soprattutto nelle ragazze, nelle ragazzine anche sportive, e questo può creare dei problemi. Siamo tornati ai nostri legamenti. Dottor Melegatti, si nasce con i legamenti un po' laschi? Sì, c'è una predisposizione costituzionale, molte persone ne sono affette, però diciamo intanto che è una situazione normale, voglio dire, fisiologica, e non è particolarmente grave in assoluto. Diventa grave quando esiste un trauma, un primo trauma, e questo, se questo primo trauma non viene curato in maniera adeguata, allora è possibile che il problema venga si mantenga. Sì, si mantenga. Certo. Dottor Sciolan, vengo da lei per avere delle indicazioni, perché ad esempio, proprio perché ha questa lassità dei legamenti, si trova a fare i conti con magari più storte, più distorsioni di altre, il ginocchio che magari fa un po' il ballerino, la caviglia che si storta, che cosa si può fare? Beh, purtroppo ritorniamo sempre al discorso di prima, e l'instabilità legamentosa non si può curare perché è un fatto congenito, e l'unica cosa che possiamo fare è un adeguato rinforzo muscolare e per stabilizzare maggiormente queste articolazioni. Quindi quelle pedane, esatto. Giusto, un po' basculanti. Certo, ginnastica propriocettiva è molto importante. Esatto. È chiaro che in queste persone lo stretching, per esempio, non sarà una pratica da effettuare in maniera aggressiva, perché già sono molto flessibili, le loro articolazioni si muovono molto. Ad esempio, questa indicazione a me sarebbe mi è molto utile. Abbiamo detto che allora questi legamenti che si danneggiano abbastanza facilmente, però hanno la capacità di ripararsi, e abbiamo parlato di questa terapia conservativa. Però l'ultima spiaggia, quando proprio anche il dottor Melegatti, il dottor Sciolan non riescono a trovare la soluzione, e si passa nelle mani del chirurgo, e noi naturalmente il chirurgo ce l'abbiamo in linea, è il dottor Massimo Berruto, che è ortopedico specialista della chirurgia e artroscopia del ginocchio all'Istituto Gaetano Pini di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Tocca venire da lei, insomma, anche se l'intervento non piace a nessuno. Questo legamenti, i legamenti di cui parliamo, si possono rompere in diversi modi, nella zona centrale, e quindi i due monconi si separano, oppure nel punto in cui il legamento si, mi lasci usare questo termine, unisce all'osso, voi siete più tecnici. Quindi ci sono rotture e rotture, dottore. Sì, ci sono rotture e rotture, diciamo, come ha detto lei giustamente, lesioni cosiddette intralegamentose, quindi nella sostanza legamentosa, oppure lesioni inserzionali, quindi laddove il legamento si inserisce a livello osseo. Ci sono rotture e rotture per quanto riguarda i tipi di lesioni, nel senso che noi possiamo avere delle lesioni cosiddette plurilegamentose, quindi di più legamenti di un'articolazione, oppure lesioni isolate di un solo legamento. Quindi in base un po' a tutti questi elementi noi possiamo poi trarre delle conclusioni e dare delle indicazioni sul tipo di trattamento. Senta, dottore, i legamenti del ginocchio, della caviglia, sono quelli che rischiano di più. Sì. Per fortuna abbiamo capito che possono essere riparati. Ma mi chiedo, dottor Berruto, è più facile, come lei, come chirurgo, intervenire su quelli della caviglia o su quelli del ginocchio? Così già sappiamo. Allora, diciamo che l'incidenza di intervento di un chirurgo è diversa a secondo che si tratti di caviglia e di ginocchio. La caviglia sulla caviglia c'è molto più spazio per la riabilitazione. Sì. Gli interventi si eseguono solo in lesioni legamentose molto importanti. La caviglia, diciamo che ha più margini di recupero. Sì. Il ginocchio invece è un po' più difficoltoso, soprattutto laddove noi abbiamo delle lesioni dei legamenti crociati, quindi del cosiddetto pivot centrale, dell'asse, del muro portante del ginocchio. Allora in questo caso il chirurgo entra in gioco, ed entra in gioco seriamente. Senta, e adesso entrate in gioco con delle tecniche sempre più soft, più raffinate, più morbide. Sì, certamente diciamo che l'artroscopia, che è una tecnica mini-invasiva che è iniziata sul ginocchio e poi è stata utilizzata su altre articolazioni, caviglia, spalla, ci ha aiutato molto in una ricerca della mini-invasività. Oggi le tecniche di ricostruzione legamentosa, ad esempio del legamento crociato anteriore, si eseguono con tecniche artroscopiche, quindi poco invasive, poco aggressive per il paziente, tenendo conto però che questo non vuol dire che si ritorna a fare attività sportiva nel giro di pochi giorni, perché comunque esiste una biologia e la biologia e la natura ha dei tempi di riparazione che sono quelli, che sono lunghi, comunque medi, e di conseguenza bisogna comunque rispettare i tempi della biologia, quindi siamo meno aggressivi, possiamo fare anche delle riabilitazioni post-operatorie, come probabilmente poi accennerà il dottor Melegati, anche un pochino più rapide, più brillanti, certo, chiaramente rispettando la biologia, che è importante. Dottore, ci sono delle, questa è comunque già stata una svolta rispetto al passato, novità dell'ultima ora in sala operatoria ce ne sono? Ma novità dell'ultima ora, ad esempio, possiamo parlare sui legamenti del ginocchio, legamenti crociati, la possibilità di utilizzare legamenti da donatore. Una volta usavamo e abbiamo usato e ancora oggi usiamo più frequentemente legamenti autologhi, cioè il paziente stesso dona un tendine per sostituire il proprio legamento. Oggi, con la presenza di banche dell'osso sul territorio italiano e la possibilità di utilizzare questi trapianti, è possibile utilizzare dei trapianti da donatore, quindi da cadavere, con una ulteriore riduzione dell'invasività. Dottore, io la ringrazio, devo dire grazie per essere intervenuto, io preferisco però la terapia conservativa, insomma non finire sotto i ferri, intanto però nel caso sappiamo che adesso i ferri sono molto più gentili. Grazie al dottor Berruto. Grazie. Ciao Massimo. Ciao Gianluca. Ciao. Allora andiamo rapidamente a Monica che ci chiama da Lecco. Buongiorno. Buongiorno. Monica, che io succede? Io vi porto il mio caso, il caso di mio figlio, 12 anni, 12 anni a giugno. Grande sportivo di sport estremi però. Sì. Tant'è che un mese fa cade facendo freestyle con gli sci. Sì. E gli è stato diagnosticato da risonanza magnetica la rottura del crociato anteriore. Sì. Ora, l'ortopedico mi ha detto che nei bambini, nei ragazzini, fino insomma a età dello sviluppo definita, non si parla di intervento. Quindi ci E la mamma ha tirato un sospiro di sollievo, dica la verità. Chiaro. Certo. Chiaro che sì. Ci siamo procurati, su sua indicazione, un tutore in carbonio, che lui dovrà usare, sì, perché fino a questo momento è stato più o meno a riposo, non proprio a riposo perché è un ragazzino molto vivace, però sì, comunque non ha fatto attività sportiva, ricomincerà adesso con questo tutore, appunto da usare per l'agonismo, per queste cose un po' estreme che estreme che chiedo. Sì, Monica, è rapidamente che, perché abbiamo 20 secondi. Allora, è vero che non serve l'intervento se non a età dello sviluppo finita, e poi comunque potrà davvero con questo tutore fare ad esempio sci nautico con trick, evoluzioni, mamma eccetera. Mia, ma cosa ha mangiato da piccolo sto bambino? Dottor Melegati, diamo un'indicazione a Monica. In generale l'approccio conservativo è corretto, nel senso che a quell'età si preferisce non operare. Devo dirle però che c'è la possibilità di operare anche ragazzini che non hanno ancora completato lo sviluppo, e questo succede in situazioni particolari dove cioè il ragazzino fa sport molto aggressivi che prevedono dei movimenti di torsione, dei pivot molto, molto aggressivi, come dicevo. Allora in quel caso si potrebbe anche pensare all'intervento chirurgico. Comunque l'approccio che ha scelto per suo figlio è corretto, non c'è la certezza matematica che il tutore sia in grado di controllare i movimenti di rotazione, però è bene provarci. Allora, noi siamo in chiusurissima, anzi abbiamo sforato, saluto i miei ospiti, dottor Sciolan, grazie per il suo aiuto, dottor Melegati, noi ci sentiamo presto. Grazie a lei. Buona giornata anche a voi, io vi aspetto domani. Un saluto da Nicoletta Carbone.